Chi ci abita fa del proprio meglio per tenere l'edificio e la tenuta in ordine e trasmetterli così alla generazione successiva. Per tale motivo, il problema dell'eredità, quando si pone, colpisce tutti. Anche in un regno in miniatura c'è bisogno di sapere chi sarà il re. Per il momento, comunque, il signore del reame è Robert, conte di Grantham. Il suo ruolo gli impone dei doveri, proprio come a Daisy, la sguattera che occupa l'ultimo posto nella scala gerarchica. Downton Abbey non può funzionare a meno che tutti quanti comprendano il ruolo che devono ricoprire e svolgano in maniera efficiente il loro lavoro. A Downton Abbey esiste una gerarchia precisa e ogni domestico ha una posizione prestabilita. Le cameriere si occupano del bucato, ma la cura degli abiti dei padroni di casa tocca a Bates, valletto di Lord Grantham, e alla signorina O'Brien, cameriera personale di Lady Grantham. Nella casa, questi due domestici rivestono un ruolo privilegiato e sono tra i pochi a muoversi liberamente ai piani superiori e inferiore e a godere della fiducia dei padroni. Il resto del personale probabilmente pensa che i loro compiti quotidiani siano più leggeri dei propri, perché in fondo si tratta di soddisfare le necessità del conte e della moglie. Ma dalla prima tazza di tè servita la mattina a ciò che si sentono ordinare prima di andare a dormire, Bates e O'Brien sono a disposizione tutto il giorno, con l'eccezione di brevissime pause. Il rapporto con i datori di lavoro si basa sulla fiducia e sui dettagli pratici. Il valletto di Lord Grantham e la cameriera personale di Lady Grantham hanno libero accesso alle camere da letto, agli spogliatoi e perfino ai bagni dei padroni. Quindi anche a molti dettagli delle vite private della famiglia, e ciò conferisce loro una posizione di potere. Al piano di sotto potrebbero usarla a proprio vantaggio, lusingando o minacciando gli altri componenti della servitù, come quando O'Brien viene a sapere in anteprima che l'erede di Downton Abbey è annegato durante il naufragio del Titanic. Al contrario, le cameriere, Anna, Ethel, Gwen e Daisy, lavorano dietro le quinte. Si svegliano molto presto per spolverare il soggiorno e le biblioteche, sprimacciare i cuscini, spazzare i caminetti e preparare il fuoco prima che la famiglia scenda per la prima colazione. Solo quando le camere sono finalmente vuote, le cameriere possono entrarvi per cambiare le lenzuola, riempire i vasi di biscotti e le caraffe d'acqua. Il resto della giornata lo passano a pulire dove ordina la signora Hughes, la governante. Battono i tappeti o lucidano gli ottoni e assistono le figlie del conte o altre ospiti di sesso femminile giunte senza cameriera. Possono essere convocate in qualsiasi momento. In ogni stanza della casa c'è una cordicella da tirare per richiedere il loro aiuto. La cordicella è collegata a un filo che fa squillare uno dei numerosi campanelli del grande pannello situato nella sala della servitù. Ogni campanello porta la targhetta della stanza corrispondente in modo che intervenga solo il domestico più adatto. Il rintocco dei campanelli è il suono che dirige le loro vite. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Jessica Fellows, Il mondo di Downton Abbey, Rizzoli, 304 pagine, 22,90 €. Lo sceneggiato televisivo, pur raccontando una vicenda di fantasia, si ispira a un personaggio realmente esistito, quello di Lady Almina, quinta contessa di Carnarvon, che grazie alla fortuna ereditata dal padre, riuscì a salvare dai debiti il castello di High Clere, appartenente al marito. Durante la Prima Guerra Mondiale, anche lei, come Lady Cora in Downton Abbey, trasformò il castello di High Clere in un ospedale, come racconta Lady Fiona Carnarvon, discendente di Lady Almina, nel libro La vera storia di Downton Abbey. Pubblicarono inserzioni nei giornali e si rivolsero ad agenzie di collocamento per infermiere a Londra. E Almina e il dottor Johnny riuscirono insieme a reclutare 30 infermiere. Dovevano essere candidate molto ambite, viste tutte le dame dell'alta società che dimostravano il proprio patriottismo aprendo ospedali. Ma Almina aveva molto denaro e poteva permettersi di pagare la gente migliore. Aveva una preferenza marcata per il personale irlandese e le infermiere di High Clere di solito erano anche carine. Almina doveva aver deciso che un bell'aspetto non poteva che giovare al morale dei feriti e non aveva tutti i torti. Poiché aveva la tendenza a darsi una certa importanza, Almina si vedeva come la direttrice dei servizi di infermeria, dotata di tutti i poteri. Era felice di poter mettere finalmente a frutto le doti organizzative e direttive che aveva perfezionato per anni mandando avanti High Clere e nel suo impegno politico. Per la prima volta dai tempi delle campagne elettorali, aveva finalmente l'impressione di usare la testa. Era nel suo elemento. Tipico di Almina. La sua impresa successiva fu ordinare un'uniforme elegantissima per le sue infermiere. Avevano abiti di lana fine di un allegro color fragola, con grembiuli e cuffie bianchi inamidati. Questo dettaglio impartiva il tono generale. Highclair sarebbe stato un ospedale di punta per la tecnologia, ma anche un rifugio piacevole per i sensi dopo gli orrori del fronte. Almina si dimostrò distinto eccellente in quella che oggi chiameremmo medicina olistica. Capiva che il segreto del successo era trattare i soldati feriti come individui bisognosi di spazio, tempo e comodità, oltre che di cure mediche. Non si pensò neppure per un attimo di sistemare letti d'ospedale nelle stanze più grandi per fare corsie collettive. I pazienti, fino a 20 per volta, avrebbero alloggiato in camere individuali o, nei momenti di maggiore afflusso, doppie. Tutte le stanze degli ospiti del primo piano furono attrezzate per ospitare i malati, così come altre stanze del piano superiore. Gli uomini furono accolti come ospiti, dormivano in letti comodi con morbidi cuscini di piumino d'oca e belle lenzuola di lino e cotone. A Highclere, naturalmente, si era abituati a ricevere ospiti, ma le cameriere dovettero stringersi in metà delle stanze, lasciando libere le altre alle infermiere. E tutti, dal personale in cucina, alle serve, ai lacchè, ai giardinieri, dovettero prepararsi a un aumento enorme nel carico di lavoro. Secondo l'idea di Almina, gli uomini feriti avrebbero consumato i pasti nelle loro stanze, se non stavano abbastanza bene per uscirne, o a una grande tavola all'estremità della Biblioteca Nord, dietro le colonne dorate. In ogni caso, sarebbero stati serviti dai lacchè. Era un po' come trasferire nel castello, su base permanente, 50 invitati. Almina notò un'estrema disponibilità da parte del suo personale che si preparava ad accogliere a Highclere i primi ospiti. Dovevano essere stravolti, ma sapevano almeno di contribuire allo sforzo compiuto dall'intero paese in tempo di guerra. Per tutti, tenersi occupati era un modo per distrarsi e per evitare di chiedersi quando sarebbe arrivata la chiamata alle armi per sé, il marito o il figlio. Alcuni membri della servitù pensavano che, visto il regime severo instaurato dal signor Streatfeild, era un piacere avere altra gente nei paraggi, incarichi diversi dal solito e parecchie facce nuove in giro. Grandi cambiamenti aspettavano Highclere. Almina decise che la biblioteca sarebbe stata usata come sala di ricreazione durante il giorno. Il mobilio non fu spostato, ma furono aggiunte delle sedie, in modo che ci fosse parecchio spazio perché gli uomini potessero giocare a carte o leggere. Il locale copre tutta la larghezza della dimora. È elegante, ma estremamente confortevole. I libri rilegati in pelle, gli scaffali di legno impiallacciati, i tappeti orientali e le lampade sui tavolini bassi accanto a divani belli imbottiti lo rendevano un luogo ideale per sedersi davanti al camino per risollevarsi il morale. Le porte finestre si aprono sull'ampia curva del viale di accesso e si affacciano sui giardini, così che nei giorni di sole la sala è inondata di luce e in pochi secondi ti lasci alle spalle la ghiaia e senti un prato morbido sotto i piedi. Tutto era stato previsto per immergere i soldati feriti nell'esistenza da ricca dimora di campagna tipica di Highclere. Almina aveva concepito il castello come un luogo terapeutico, in cui l'atmosfera della biblioteca o la cucina eccellente erano importanti quanto il contributo del radiologo che progettava di far venire da Londra. I primi pazienti arrivarono a metà settembre. Erano membri dei Seaforth Highlanders e della Royal Artillery e soffrivano di fratture, ferite di armi da fuoco e senza dubbio di quella che sarebbe stata chiamata psicosi traumatica, e che oggi definiremmo sindrome post-traumatica da stress. Non c'è da stupirsi che per loro bastasse posare lo sguardo su Highclere per credere di essere giunti in paradiso. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Lady Fiona Carnavon, Lady Almina e la vera storia di Downton Abbey. Vallardi Editore, 316 pagine, 14,90 euro.